Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi sta deludendo quasi tutto. Mi sta deludendo quasi tutto. Ragazzi, è semplice, se volete mandare a cagare Parenzo in diretta 800 24 0024, se invece volete mandare a cagare Parenzo in differita 393 71 71 701. In ali. Sono andato all'università 7:47 e ovviamente si ascoltano i nani, non si molla un cazzo, Cruciani, non si molla un cazzo. Mio marito, per colpa vostra, adesso non si cambia i calzini più tutti i giorni, se li cambia una volta a settimana. Understand? E comunque, Cruciani, i nani. Senza controllo sanitario. Hai riconosciuto Lores? Davide, hai riconosciuto Lores o no? Understand? Certo, understand, ma pensa. Perché adesso non ho più paura dei nani. Un tempo non li potevo vedere. Vai, Richard! Avevo tanta paura, una paura bestiale durante la notte. Non riuscivo a dormire, non riuscivo a prendere sonno. Se ne frega. Stringere i denti e andare avanti! Ma se non li hai i denti, che stringere? Che dice? Comunque so che oggi voglio dedicare interamente la puntata a questo fatto importante. Cosa? Dell'accordo votato al Parlamento Europeo sul CETA, cioè il grande mercato Canada-UE. Bene, allora per approfondire questo tema... Ti do solo una risposta a questo tema qua che hai posto, molto importante, CETA. Certamente di estrema importanza. La risposta è molto semplice. Sì. Questi cazzi! Eccolo qua, è in Audi. Li avete visti sulle rive del fiume. Bene, apriamo la puntata. Allora, lo sbiancamento anale. Ma come? Cazzo, è la Confindustria. No, aspetta, c'è un'altra cosa. No, ti voglio parlare di un'altra cosa. Perché una volta non mi sorprendi? Mi dici, voglio parlare della bellezza. Davide, fammi parlare. Ma sorprendimi una volta. Sorprendimi. Guarda, apriamo la puntata di oggi dedicato, che so, alle ONG, al mediatore culturale. Oppure sorprendimi, non ti chiedo questo. Non ti chiedo. Ci parliamo della bellezza, dell'estetica, del bello. Un viaggio nel bello dell'Italia. No, rapporti anali, preti pedofili, pipì dei lavandini, gente che fa gang bang, amori plurimi, porcherie, famiglie sfasciate da coppie che fanno mucchi la mattina e la sera. Sorprendimi una volta, regalami un giorno, fidati, ma ti fa bene. Sorprendi Severgnini, sorprendi tutti noi un giorno. Oggi vogliamo parlare dell'estetica del bello. Hai finito? Sì. Allora, la grillina Lombardi dice che se Feltri avesse fatto lo stesso titolo con lei invece che con la Raggi, stava ancora a correre, cioè lo avrebbe rincorso, non so, col Mattarello, con la pistola, con il vaffanculo di Grillo, eccetera, eccetera. Voi dite, perché faccio riemergere questo argomento della patata bollente? C'è una novità, certo, non viene dai vertici grillini, ma da militanti grillini sul territorio, i quali danno della prostituta, della escort a una deputata del Partito Democratico, di cui non mi frega assolutamente nulla, per carità, non devo difenderla io. Sentiamo la signora Lombardi prima. Se l'avessero fatto a lei un titolo del genere, penso che Feltri stava ancora a correre. Feltri, volevo fare il titolo La gatta da pelare. Pensa che io oggi ho fatto un titolo, non io, di un mio collega, che è la gatta da pelare. Ma, e allora poi mi sono pentito perché ho pensato, qui arriveranno gli animalisti e mi spaccheranno il muso perché la gatta da pelare, non so cosa... Allora, un signore dei 5 Stelle, che si chiama Donnarumma, sembra, signor Donnarumma, uno dei famosi meet-up, caro Parenzo, i meet-up di Angri, provincia, credo, di Salerno o giù di lì, ha detto che la deputata del PD Morani fa la prostituta. Ma che la merga, prostituta. Che Morani. I signori dei 5 Stelle, sempre così fini, che criticano Feltri per quel titolo patata bollente, questa è la cosa incredibile. Sì, ma... Eccola, questa è una delle cose che le è stata scritta. Morani prima di entrare in Parlamento faceva l'escort, adesso pur di non uscirsene divulga bugie e fango sul Movimento 5 Stelle. Sì, l'ho voluto pubblicare perché il livello oramai di scontro è arrivato allo schifo, perché questa roba qua fa solo schifo. Questo signore si chiama Antonio Donnarumma, che io querelerò, che è un militante grillino. No, tra l'altro si chiama come Donnarumma, il portiere del Milan, ma anche lo stesso nome, credo, perché Antonio, quello si chiama Gigio, ma in realtà è Antonio. Poi vuole anche una legge contro questo schifo, ma non c'è bisogno di una legge, perché le leggi già ci sono, tant'è che lei querela questo tizio qua, per cui niente leggi nuove. Per queste cose qui, se uno vuole, a parte che se ti danno della prostituta o della puttana, beh, questo... mandali a fare in culo e basta, non no, c'è bisogno di portare in tribunale questa gente. Assolutamente, l'offesa va sanzionata. Ma non c'è bisogno, ma è pieno di gente. La differenza è, se tu ti vuoi fare insultare o prendere la pesce, ma sei libero di farlo. Ma chi se ne frega? Il diritto ti consente di scegliere un'altra strada, e io concordo con la Morani. No, ma guarda che è diverso la approccio, cioè tu dici non ma andrebbe, non ha importanza, ma ci sono 40 che c'è una legge che lo consente di farlo. Ma sì, tu non, d'accordo, tu non per la, a te piace far dipendere la pesce in faccia, ma non è così, non piace essere insultato, ma e sono. Porta ma in tribunale ma quella dovresti persona passare lì. Tutto il giorno in tribunale, ma perché no, ci sono 2000 dipende. Persone che ti insultano su internet, ma dipende, anche tu dovresti passare tutto il giorno in tribunale. Ma io quando vedo una cosa che reputo oltremodo grave, denuncio. Infatti oltremodo grave, cioè oltre la soglia della tolleranza mia. Eh sì. Ragazzi, comunque la follia non ha ormai limiti, la follia sugli animali. A parte che gli animalisti hanno rotto i coglioni a un prete che ha cacciato una signora con un volpino in una chiesa nei giorni scorsi, è successo a Roma. Ragazzi miei, il prete in chiesa sceglie se avere i cani o non avere i cani. Se non vuole i cani, non rompete il cazzo, non andate con i cani in chiesa. Per me non c'è niente di strano, perché è andare con un cane in chiesa. Credo anche che questo prete abbia un po' esagerato. Però se il prete non vuole i cani perché abbaiano, perché rompono le balle, e non portate i cani in chiesa, non c'è nulla di drammatico, legateli fuori, teneteli a casa, dai, su. Siccome pensate che sono degli esseri umani, siccome pensate che sono simili a voi, lasciateli in casa, possono stare tranquillamente da soli. In casa, aprire la porta, dire buongiorno, buonasera al postino che viene o a chiunque viene. Cioè, aprite la porta, rispondono al citofono. Pensate che sono come gli esseri umani? Che aprano il citofono, che rispondano al citofono, che aprono la porta. Vabbè, comunque, cosa è successo a Di Martedì? Hanno raccontato ieri la storia dei... Senti, la cuccia in Wengeli Swarovski a 1350 euro, il vestitino in pizzo francese. Bella questa. Lei è Tiffany, è una chihuahua meravigliosa. Questa è una cuccia tutta in Wengeli e Swarovski. Viene 1350 euro. La cuccia a 1350 euro, il vestitino in pizzo francese. Ottimo. Questo è tutto pizzo francese, shantung in seta. Siamo intorno ai 250 euro. Guinzaglio da 250, vabbè, insomma, guinzaglio da 250 euro, sempre una follia, eh. Guinzaglio costa 1 euro, 2 euro ai supermercati, di cosa parliamo? Poi dobbiamo prendere anche un guinzaglio, anche questo un prezzo intorno ai 250 euro. Ragazzi, però parliamo anche di cose serie, non solo queste follie animaliste. Però io ripeto, sono coglioni quelli che comprano queste cose qua. Gli altri, quelli che vendono, e sono dei geni, non c'è niente da fare. Se uno si inventa una cuccia di Swarovski da 1350 euro, per carità, va bene, perché i consumi, uno spende, va... però quello che la inventa è un genio, quello che la compra è una testa di cazzo. No, una testa di cazzo, un poveraccio, che vuoi, uno che spende per un cane 1350 euro per una cuccia di Swarovski. Ma chi se ne frega, ma può... Ma è un hobby, se gli piace così avere il cane Swarovski, che a me non me ne frega niente, sa quei soldi da... Frega nulla. Frega niente proprio, ma niente. Ragazzi, però parliamo di cose serie. Allora, ha fatto molto discutere l'intervento di Maurizio da Milano l'altro giorno sulla pedofilia. Parlavamo di preti e pedofilia, è un discorso serissimo. Io farei un piccolo ripasso, ma giusto due cose che ha detto questo signore, il quale ha detto che non è una cosa tanto grave mettere le mani addosso ai bambini, sì che certo lo stupro però è raro e comunque non è la fine del mondo, eccetera eccetera. Molti ci hanno mandato dei messaggi non critici di più, cioè feroci contro questo tizio. Denunciatelo, lo picchiamo, lo ammazziamo. Schifoso, ma denunciatelo sicuro. In sintesi, Maurizio da Milano, uno che si è presentato come uno molto molto cattolico, un ultra cattolico, diciamolo. Ritengo che comunque questi soggetti commettano dei reati, non diciamo di gravità modesta. Di gravità modesta. Ma cosa dice? Lei va a vedere poi nello specifico. Ma tu sei malato di mente, tu sei bagato in testa, cioè, hai le pigne in, testa. Ma perché mettere le mani invece nel culo, che cos'è? È una cosa Vuncioni, quello è evidente, mi scusi. È una cosa? Da Vuncioni. Ma spiega, traduci, da Vuncioni, sì, ho capito io, ma spiegalo, una cosa. Ah, una cosetta così, una cosa, come ha detto lei, come hai detto tu, una cosa piccola, una cosa piccola. Non è una cosa particolarmente grave. Denunciate sta merda! Bastardo di merda! Questo è un pedofilo bastardo! Il numero di Maurizio non datelo alla polizia, datelo a me. Datelo a me. Posso candidarmi per andare a ammazzarlo personalmente, questo pezzo di merda di un pedofilo di merda? È abbastanza grave che questo Maurizio non sia in carcere, cazzo! Ma vaffanculo, va! Segnalate questo minchione che sta parlando ai carabinieri o alla polizia. Cioè, mi sorge il dubbio che sia un pedofilo da come parla. Non è abbastanza grave. Ma non riuscivo a dormire, non riuscivo a prendere sonno. Allora, questo è quello che è successo, caro David. C'è un'altra cosa, la reazione è molto forte, naturalmente anche eccessiva. Normale. La reazione di qualcuno. Sì, assolutamente eccessiva, però è giusto denunciarlo questo criminale. Non lo so, denunciarlo adesso, ragazzi, questo qua ha espresso un'opinione da un certo punto di vista. Che mi fa schifo. Non mi può fa più schifo. Passare questa però, roba dell'opinione. No, l'opinione, ma denunciatelo pure, ma denunciatelo, io non denuncio nessuno, denunciatelo. Ma mica perché sono a favore di quello che ha detto, mi fa orrore, l'ho contestato in diretta. No, ma allora, l'ho massacrato. Ma l'opinione. Ma che ha detto questo? Non è che ha detto delle cose gravissime. Ma deve passare il principio che un'opinione è solo un'opinione. Sospetto, con l'opinione si uccide. Il sospetto è che in realtà molti mi hanno scritto che dietro una difesa di questo tipo si potrebbe nascondere, ma secondo me non avrebbe nemmeno chiamato, un cripto pedofilo, sì, o non una cripto. Cosa di questo tipo. Vabbè, comunque questo... sì, è vero, è meglio segnalare, non denunciare. Segnalare. C'è la questione di Bologna. Ora, ragazzi, quello che è successo all'università è di una gravità assoluta. Lo racconta un poliziotto che si chiama, credo, Comellini, una cosa di questo tipo. In 300 a volto coperto lanciavano bombe carta. Non c'entra pazzesco. Niente la questione dei tornelli, è l'occupazione del territorio. Cioè, volevano dimostrare, in parte l'hanno dimostrato, se non si ripristina immediatamente la legalità in quel posto, che sono più forti loro, cioè sono più forti quelli con le bombe carta rispetto a quello che decide un rettore, rispetto certo. a quello che decide la polizia. L'unica cosa è quella. Le questioni, come dire, in ballo, cioè i tornelli per l'ingresso in biblioteca, non c'entrano nulla. Ci sono gruppi di violenti che vogliono affermare la loro supremazia su quello spicchio di territorio. E questo qua deve essere impedito a ogni costo. Dopo poco si sono radunate all'incirca un 300 persone, tutte travisate con sciarpe, cappucci e quant'altro per evitare di essere riconosciuti, e hanno iniziato il lancio di oggetti di vetro, tavolini, bombe carta. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Nel parcheggio dell'autogrill sulla 1 è pieno di camion, tutti sintonizzati su Radio 24, stanno tutti aspettando la Zanzara, i camionisti, siamo al top. è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Allora, caro David, può sembrare una contraddizione, ma io ti dico una cosa sulla vicenda del ragazzo che si è suicidato dopo la perquisizione della Guardia di Finanza lì a Lavagna, no? In Liguria. Certo, con la madre stessa che sì, dice la che madre dice è che... stata lei a chiamare la Guardia di Finanza. No, in realtà non è vero, perché nella ricostruzione non è così. Comunque l'hanno fatto entrare, naturalmente, la Guardia di Finanza... Beh, la donna ha ringraziato i finanzieri, mi pare. Sì, ha ringraziato la Guardia di Finanza, odio, non c'era... dicendo che non bisogna fumarsi le canne, la gente pensa che sia una cosa normale. Vabbè, è una madre, è normale che pensi una cosa di questo tipo. Però io dico, tu immagini una situazione, perché il giudice, il procuratore, la procuratrice del Tribunale dei Minori dice che i blitz non servono, sarebbe bastata una telefonata, perché ragazzi, l'idea che si possano fare dei blitz a casa di un ragazzino, non per sedare le violenze di Bologna, che è un'altra cosa, ma i blitz a casa di un ragazzino per trovare che cosa? 10, 20 grammi di hashish? Ma come sprecano il loro tempo, le loro forze, i finanzieri? Perché una cosa di questo tipo? Che bisogno c'è? Io sono da questo punto di vista profondamente a favore della legalizzazione della marijuana e della droga leggera. Questo è un altro argomento, no, però. Ma non c'è bisogno di fare un'irruzione di quel tipo per prendere che cosa? Che il grande spacciatore preso davanti alla scuola, il ragazzino, come facevano a sapere ma la finanza, come faceva prima a sapere quanti, io so, figurati, anch'io voglio solo per la ultra legalizzazione della marijuana, ma figuriamoci. Però tu dici che non potevano saperlo e dunque hanno fatto bene a fare la perquisizione a casa. Ma non potevano sapere. Intanto, certo, se non ci fosse stata la perquisizione, quello non si sarebbe buttato alla finestra, perché magari sarebbe buttato 20 giorni dopo per altri motivi, non lo so. In quel momento si fa la perquisizione e quello si butta. Io non dico che è colpa dei finanzieri che hanno fatto la perquisizione, ecco, per carità. No, questo è un po' assolutamente no, però, no, è forte, è una conseguenza di quello, tu dici. Ho capito, però. Senza quella perquisizione non si sarebbe arrivati al dramma in quel momento. Ora questo ragazzo qua potrà avere tutti i problemi del mondo se faceva le canne, punto e basta. Si però faceva è una cosa è che un pure la madre, la cosa che criminale. Tu dici, neppure la madre lo ha sostenuto, capisci? Cioè, una correlazione tra il suicidio del figlio e la perquisizione, neppure la madre ha fatto questo link. La madre ha detto: vi vogliono far credere che fumare una canna è normale, che faticare avete a parlarci è normale. Avete ascoltato il mio grido di dolore. Vabbè, d'accordo, vabbè, ma quelle sono cose che, cioè, ma queste sono le cose che una mamma dice. Beh, cioè, no, non sono cose scontate di fronte a una bara e un lutto aver perso un figlio, eh? Non sono delle cose così scontate avendo perso un figlio. Stefano da Como, vai Stefano, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, dimmi. Ma io volevo solo sottoporvi questa questione. Spesso va di moda ultimamente che i giornali, anche voi giornalisti o comunque insomma i media, ritwittano e elevano a grandi pensatori e interlocutori il primo stronzo che passa e che su Facebook scrive il suo commento. Cioè, per dire che cosa? Per dire che Facebook che cosa fa? Fa da voce a tutti. A quale vicenda ti riferisci? Scusami. Ma ad esempio, prima tu citavi il commento di un tale Donnarumma alla Sì, quello dei 5 Stelle Morani. Di Angri, sì. Adesso, lasciandoci... Ma non siamo altro. Stati noi, però, è stata la stessa Morani. No, effettivamente, ce ne possono, tu dici, ce ne possono essere tanti che ti danno della puttana e della prostituta. Se tu lo fai diventare un caso simbolo, diciamo, è sbagliato. Io dico, ma scusate, quando uno va al bar, quante cagate sente sparare? Beh, oggi nel 2017, oramai già da diverso tempo, allora? Il bar è diventato Facebook. E quindi allora non bisogna dare così tanto spazio al primo coglione che passa ad elevarlo a interlocutore, come fanno in Repubblica e Giornale. Fermo lì. Questo qua che è stato citato dal io non devo difendere nessuno, non conosco la Morani e non mi interessa. La cosa fondamentale è che questo qua però non è un interlocutore X su Facebook, è un signore che si presenta come un militante, un militante a tutto tondo dei 5 Stelle, cioè non è né un deputato, ma per loro uno vale uno, un deputato vale come un cittadino, secondo il ragionamento loro. Cosa vuol dire? Ma allora passa il primo stronzo che passa, dice che è un attivista 5 Stelle ed è autorizzato a dire tutte le cagate che vuole, o meglio... Questo non è un attivista, questo qua fa parte... attivista Allora cos'è? Rappresenta tutto il 5 Stelle. Sì, non ci dimentichiamo che la cosa non è stata confermata al 100%. Qualche tempo fa un deputato dei 5 Stelle disse alle deputate del Partito Democratico che erano là dentro per aver fatto dei pompini ai loro capi. Questo io te lo ricordi questo, Parenzo? No, te lo ricordi questo? Assolutamente. Voi mi insegnate che la madre dei coglioni è sempre incinta. No, questo ci manca. Ma il problema è questo. Tu non puoi rompere i coglioni. La cosa medico. Quello che ti dico io. È questo, non puoi rompere i coglioni a Feltri perché ha utilizzato il titolo patata bollente quando i tuoi militanti, la maggior parte dei tuoi militanti danno delle puttane a quelle del PD ogni giorno su internet. La maggior parte dei tuoi militanti, che molti militanti, quelli più visibili su Facebook, ragazzi, ma ti posso fare l'elenco delle persone: puttana, ladra, serva di Renzi, dai, su, è pieno. Ma dai. Ti ripeto, oggi Facebook dà voce a ma darà voce quello che è, ma questo è male. Potevano parlare solo al bar, tutto vabbè, qua. ciao, dove ciao, andiamo? Caro. Carmine, Napoli. Buonasera, dottor Cruciani. Dimmi, Carmine. Prima di tutto è la prima volta che io mi trovo a telefonare a una... Vabbè, no, Carmine, forse giusto. Vabbè, sarà emozionato, ma vatte emozionato da un'altra parte. No, faccio un bel respiro. Apprezzo tutte quelle cose che avete detto contro la... Ma non devi apprezzare nulla, ci mancherebbe pure. Vabbè, che siamo... uno deve dire una cosa. E dimmela una cosa, però. Ho molto apprezzato quelle cose che hai avete apprezzato, detto va bene, contro la pedofilia. Ma certo, ma... Però contro la pedofilia. Mi preme... Sì, da credente. Rettificare il giudizio nei riguardi dell'attuale pontefice. Sì, rettificare chi? Ha ragione. Ma chi vuole rettificare? Mi piace anche la pacatezza che inserisci in questa trasmissione. Posso dire o no? Guardi, lei ha tempo da adesso fino alle 20:50. Sono brevissimo. No, ma non serve. Vai, Carmine, vai. Dimmi. Avanti, facciamo sta dichiarazione. Ascolto la sua trasmissione da un anno che sono ipovedente, quindi... Mi piace ascoltare. Cioè, la rettifica è questa. Sì, assolutamente. Cioè, questo Papa, da quando è Papa, questo dopo 4-5 anni, sì. Grazie al cielo, devo dire. Sì, grazie allo Spirito Santo, certo, non c'è dubbio. Allora? Sta mettendo in luce tante cose. Tante cose. Che i vescovi e i superiori religiosi delle congregazioni religiose hanno paura di lui. Giusto. Perché appunto sta sottolineando, anzi, bisogna stringere. No, ma che stringere? Un'ottima riflessione, pacata. Un vescovo di Roma, del Vaticano, l'ho messo agli arresti domiciliari. Ma chi? Un altro lo denunciò. Ci faccio tutto il racconto, tutta la storia, l'elenco. Sono dei fatti, caro. Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Voglio dire, la gente non sa, ma lei che ha informato queste cose dovrebbe dire. Sì, vabbè, ma cosa vuoi dire? Voglio dire che è ingenerosa. No, ma la supercazzola dov'è? Il giudizio nei riguardi di questo attuale pontefice. Ma ingenerosa di chi? Io ho detto semplicemente ieri che secondo me, provocatoriamente l'ho detto, si potrebbe pure pensare a un'incriminazione del Papa, di fare una specie di azione collettiva contro il Papa per la questione dei pedofili, che spesso anche lo stesso Papa ha sottovalutato e ha coperto anche lui. Alcuni casi, poi te li racconto, alcuni casi, amico mio. Guardiamo alcuni casi. Carmine, come va? Come stai? Non c'è male, purtroppo c'è una maculopatia da un anno. Che c'hai? Questo mi dispiace. Una maculopatia. Ah, la maculopatia, vabbè, che vuoi fare? Da un anno non riesco tanto a leggere, mi dispiace. Questo mi dispiace anche a me. Poi coltivo i campi. Che fai? Coltivo i campi. Coltivi i campi? Beh, sì. Ottimo questo. Sì, pomodori, fagiolini, patate, la patata bollente. Mandami tu pomodori, amico mio. Mi mandi tu pomodori. Bene, auguri per la trasmissione. Mandami tu pomodori. Subito la Marchetta. Pomodori buoni, pomodori di Napoli. Io adoro i pomodori. Non mi mandate i pomodori. Produttori napoletani, non mi mandate i pomodori. Però adoro i pomodori. Lassativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Ottima trasmissione, sempre la migliore. Fulvia, cosa pensi della Zanzara, il programma che ti ho fatto sentire stamattina col giornalista? Fa schifo al cazzo, questo qua è una faccia di merda. Buonasera, io volevo proporre una grande inchiesta della Zanzara. Io ho la sensazione che il vecchio caro pelo di figa stia ritornando di moda. Mi emoziona questo ritorno, inteso come pelo di figa. Inteso come pelo di figa. Là ci vuole l'anarchia. Caro David, ecco qua, ti faccio sentire quello che dice la senatrice Taverna, che sostanzialmente afferma quello che noi già sappiamo, cioè che in Senato si lavora pochissimo in realtà. No, no, non è vero. Si lavora poco, dai, nelle su. Commissioni si ma lavora, sì, anche in queste. Sì, beh, lei allora è la prima a non lavorare, a denunziare di non lavorare. Sì, sì, dice io non si lavora, si lavora. Comunque, sentiamo, l'aveva già detto, lo ripeto ogni tanto, siamo qui, sì, non sì. Facciamo niente. Niente, si annoia. Però vabbè. Poi si viene a scoprire una cosa, intanto sentiamo la Taverna. Buonasera dal Senato della Repubblica. È martedì, sono le 17 e 5 minuti e hanno chiuso aula. Hanno richiuso aula. Cioè abbiamo lavorato un'altra mezz'ora perché devono andare in commissione, questa volta con il mille proroghe, perché non si sa. Altra mezz'ora di lavoro, altri 14.000 euro guadagnati in questo mese, ma per fare che? E poi non vogliono andare ad elezioni subito? E che facciamo così tutto un anno? Un anno siamo qua dentro per far guadagnare questi, a buffo, i soldi che voi pagate, che noi paghiamo, per fare che? Per lavorare mezz'ora e il martedì, un paio d'ore e il mercoledì e il giovedì tanti saluti a casa? Questa era la signora Taverna, la sì, signora Taverna. Sì. Per carità, avrà anche le sue ragioni, sicuramente ci vuole maggiore produttività. Secondo me meno legifera il Parlamento meglio è, meno leggi si fanno meglio è, meno parlamentari ci sono meglio è. In altri paesi i parlamentari sono di meno e si lavora anche di meno in sessioni, come dire, più ristrette, no? Più ristrette. Sì. Sono pagati anche di meno, eccetera eccetera. Però uno poi dice, cazzo, la Taverna sarà sempre presente, no? Sarà una di quelle, no? E se invece uno... cosa e invece, risulta dalle commissioni che presenza una deputata del PD, senatrice, credo, sua collega del PD, non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma non è importante, ve lo diremo dopo, le risponde in questo modo, sentite. Cara senatrice Taverna, tu dici che noi parlamentari lavoriamo troppo poco. Non so cosa fai tu, io so cosa faccio io e cosa fanno i miei colleghi. Io ho il 96,8% di presenza in aula. A quanto mi risulta, tu sei sotto il 60%. Ne riparliamo un'altra volta. Io non conosco questa Filippin. Non so chi sia, non la devo difendere. Però, amica mia, se tu fai la denuncia, no? La signora Taverna fa una denuncia. Oh, non facciamo nulla. Vergogna, ve rubano i soldi. Sì. E beh, poi devi avere come minimo il 90% di presenza nei voti d'aula. Se è vero quello che riferisce questa senatrice del Partito Democratico, la signora Filippin. Partito Democratico, sai, quello che resta del Partito Democratico. Beh, poi, vabbè, adesso ironia a parte. Tra scissioni diciamo, e scissioni, di no, cui non mi frega ancora nessuna scissione. Beh, comunque, insomma, quella è, amica mia, 60%, sotto il 60%. Sì. E dai, e dai. Sgarbi, personaggi 5 Stelle spregevoli. Io mi chiedo, ma con che faccia vanno in giro per il mondo questi? E qualcuno li difende pure, altro che patate bollite. Sono personaggi spregevoli che distruggono una città con i loro corifei, tipo la Boldrina o Grasso, che invece di scandalizzarsi per lo scempio di Roma, attaccano Feltri. Cioè attacchi uno per queste patate bollente e non attacchi la Raggi che distrugge Roma per sempre come un barbaro. Non lo fai? Oh, il ritorno di Don De Capitani. Di Don De Capitani. Oh, mamma. Te lo ricordi? Mia, sì, ma questa volta, incredibilmente. Se incredibilmente, noi siamo matti, noi voemo, dicono no, in ma Veneto. Incredibilmente, difende il titolo di Libero. Cioè, il titolo di Libero non è un tabù. Come la Chiesa che non parla di sesso, pene, vabbè, vagina. De Capitani. Don De Capitani, il prete antileghista. Questo modo di scandalizzarsi richiama un po' la Chiesa, no, la Chiesa che vai a parlare di sesso, un tabù. Se tu parli di sesso, vai, tu parli di pene, tu parli di vagina, tu parli, non so, di altre cose, masturbazione, guai, un tabù, no, non si può parlarne. E così mi sembra che sia veramente anche questo bigottismo, no? Di scandalizzarsi per certi titoli. Vabbè, ben vengono certe volte, se servono a far discutere. Allora ragazzi, andiamo a... dove andiamo? Andiamo Sasha, Modena, vai, vai. Buonasera. Dimmi, dimmi. Una domanda semplicissima. Volevo sapere perché, secondo il suo ragionamento, non so se il Parenzo è d'accordo con lei, un signore logicamente che sta bene, che spende 1.500 euro... Sì, però ti sento poco, amico mio. Da dove stai chiamando? Ti sento poco, amico mio. Dall'autostrada. Amico mio. Più di così non posso fare, sennò grido. Dai, su. Ma volume a palla di che cosa? Scusa, come sei? Con l'auricolare? No, te lo ricordo. Bluetooth, che cazzo c'hai? No, sono attaccato col cellulare alla bocca. Dai, su, forza, dai, allora? Vabbè, per quale ragionamento una persona che spende 1.500 euro in una cuccia è un pazzo, mentre il persiano dell'altra sera che spende 1.000 euro in scarpe piuttosto che 30.000 in orologio è un genio del male? No, ma nessun genio, l'ha detto. Nessun genio del male. Mi consentirai. No, ma hai ragione. Ieri sera in trasmissione lo portavate quasi sul palmo della mano. No, che palmo della mano? Nessun palmo della mano. Per me è una follia spendere. Ma io l'ho detto pure, cioè, io lo spenderei mai. Ma ognuno potrà spendere i soldi come vuole, però. Comunque. Sicuramente, ma io non ho capito, ma ognuno, uno se non ruba, se li guadagna o se glieli regala al papà, io posso dare un giudizio morale, ma non interessa il giudizio morale, potrà spenderli come gli pare uno i soldi. Sasha, poi posso dare un giudizio morale, però, ovviamente. Aspetta un attimo, se, io non li darei, morale se li avessi, certo, cioè, se me lo si chiede, se io avessi quei soldi non li darei ai miei figli da spendere in orologi, ecco, questo sicuramente. A parte che il no, non lo farei, ma adesso spende soldi. Padre, ma io non darei una paghetta di 14.000 euro, anche se li avessi, non darei una paghetta di 14.000 euro ai miei figli. Perché la mia domanda è: lo trovo diseducativo? No, comunque. Se guadagni 20 milioni di euro l'anno, può darsi che la paghetta no, è 10.000 euro. No, lo troverei comunque diseducativo. Però, non voglio, rispondere, non voglio rispondere a Sasha. Voglio rispondere a Sasha. Tu dici: c'è una contraddizione perché tu perché non consideri una follia spendere 30.000 euro per un orologio e consideri invece una follia spendere 1.500 euro per un collare di un cane di Swarovski. Giusto, Sasha? È questo che dici, no? Allora, guarda, amico mio, le cose sono profondamente diverse. Innanzitutto l'orologio ti serve... Cioè, per me spendere 1.500 euro per un collare Swarovski per un cane... Cioè, il punto è questo. Poi è chiaro che ognuno fa quello che vuole. Ma è uguale a mettere i rubinetti d'oro in casa. Cioè, voglio dire, ma chi se ne frega? Sì, ma i rubinetti sono per te. Si chiama buon gusto. I rubinetti sono per anche te. Anche quello è per te, perché tu addobbi il cane come vorresti essere addobbato tu, magari. Ma posso considerare che chi spende 1.500 euro per il collare... per la cuccia Swarovski di un cane è un coglione? Ma sì non no? Trovo una differenza se uno reputa il cane una protesi di se stesso. Ma il ragazzo che ne compra quattro scarpe, esatto, di fila, quattro paio di scarpe, è uguale, di fila, non è un coglione anche lui. Ma no, non coglione, è uguale. Se uno reputa il cane una parte della propria famiglia e ha un budget tale da considerarlo ragazzi, a me fa più impressione la cuccia Swarovski del cane, chiaro? Sì, mi fa più, che ti devo dire? Mi fa più impressione quella, che ti devo dire? Uno che mette la cuccia Swarovski può anche, cioè non è interessante vedere un cane dentro una cuccia Swarovski, ma non per so lui come sì, perché vuole far vivere il cane al suo stesso livello, siccome è molto ricco vuole che il suo cane sia al suo Franco rango. Da Roma, vai Franco. Buonasera, sono Franco. Io vai. Forse vado un po' fuori tema, ma vai, Franco, vai, sì, quel ragazzino si è tuffato nel vuoto perché la finanza l'ha fermato con pochi grammi di roba ed è andata a casa. E io in famiglia ho una figlia che da tempo ogni tanto si fa una canna, e non è un dramma, non è un dramma. Ma quale dramma? Non è un problema, l'importante è stare vicino. Col magari tempo te fai una canna, magari te fai una canna pure te con lei ogni tanto. No, io neanche fumo, però so di parecchi 68enni, papà di amiche di mia figlia, che si fanno le cannette insieme ai figli. Adesso ragazzi, mi dovete chiamare tutti quelli che in questo momento, ascoltando la Zanzara, vi state facendo un cannone tranquillamente. Sfidiamo questo perbenismo, sfidiamo queste persone che pensano vi state facendo una canna, la droga. Chiamateci, fateci sentire l'odore dell'hashish, l'odore della marijuana. Non mi sono mai fatto una canna in vita mia. Fateci sentire l'odore che penetra dalle onde in FM, entra dentro le vostre case. L'odore della marijuana, dell'hashish. Non è la morte. Bisogna naturalmente come tutte le cose, volevo essere misurati naturalmente. Non è che uno si può fare 10 canne al giorno, ne manca nemmeno una al giorno, perché insomma uno poi si rincoglionisce, ma lasciamo perdere questa roba qua, ognuno si può anche rincoglionire. Se è legale il whisky, se è legale l'alcol, perché non lo deve essere pure la marijuana? Perché non anche le canne? E dai, su, ragazzi. È una cosa di una semplicità pazzesca. E invece sono andati a rompere i coglioni a un ragazzo fuori da una scuola. Franco. Se posso dire ancora una cosa? Mia figlia è stata fermata da dei finanzieri all'uscita di un casello. Sì. E dice che gli hanno fatto una segnalazione, gli hanno rivoltato la macchina, intimorendola. Alla fine questa si era portata una cannettina ma di pochi microgrammi dall'alto di erba che probabilmente ma è questa la follia che poi spesso vanno a rompere i coglioni a quelli che si portano dietro le cannette, andassero a prendere i grandi spacciatori se proprio vogliono. Vabbè, no sì, dai su ragazzi, ma no, chi c'è qua? Carmine Napoli, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Senti, io invece vorrei guardare un altro aspetto. Allora, sempre sul ragazzo, sul ragazzo che si è suicidato, sì, innanzitutto grosso dolore, lo dico come padre. Vabbè, è inutile dire cose banali in questa trasmissione. Dimmi. Però la considerazione che voglio fare io è questa: secondo questo principio, allora non si deve andare a rompere i coglioni nemmeno al contrabbandiere che vende i due pacchetti di Marlboro. Ma quello è un altro discorso. Che vuol dire? Quella è un'altra roba. Ma dai, su, ma che c'entra? Dai. Ma perché lì è un altro discorso, che c'è una violazione di legge che riguarda il fatto che le sigarette non si possono. Anche qui c'è una violazione. No, perché c'è, perché c'è il consumo. C'è l'uso personale. È una violazione amministrativa. Ah, sì, vabbè, c'è l'uso. Sì, ma non questa cosa qua della violazione amministrativa è una follia. Te la digiri bene, allora va bene che la Guardia di Finanza vada a casa di un ragazzino. Certo, di un ragazzino. Vabbè, va benissimo, perché se vi piace così. No, è sicuramente eccessivo, ma quelli non sapevano quanto quantitativo. A me non frega niente, non mi piace. Però secondo questo principio non va nemmeno a casa del contrabbandiere di strada. Ma sono due cose diverse, dai, su. No, non so due cose. Fermo lì. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. Quanto è bello quando vai al cesso in ufficio, ci caghi, ti sciacqui il culo nel lavandino e dopo di te ci va il tuo boss. Ah, il top! Quando vado al bagno, l'acqua la devo tirare due volte perché ne faccio una montagna. Ragazzi, stanotte ero nel mio letto, sdraiato su un fianco, pensavo di dover scorreggiare e invece mi sono cagato addosso. Siamo al top. Crucians, sono qui con la mia ragazza e ho fatto sentire La Zanzara per la prima volta. Ci piace da morire. È vero che ti piace, amore? No. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Roma, Giuseppe, vai Giuseppe, Roma. Buonasera, eccomi. Dimmi, parliamo, vai. Di preti pedofili e vescovi che non denunciano, sì, se volete. Sì. Il vescovo non può denunciare. E in che senso, scusa, un vescovo non può? Mi spiego subito e brevemente. No, ma lo sappiamo. Infatti, perché purtroppo secondo i patti lateranensi, quelli firmati a suo tempo, non... prima da lui, no, prima poi da lui, poi da lui, da signor Craxi, poi da Craxi. Non può denunciare, può anche non denunciare. Non mi riferisco a questo. E che cosa? Allora? Intendo dire che un sacerdote che è in attività ha esercitato magari 20 anni di bontà, di assistenza allo spirito delle persone, allora? Ha perseguito ciò che è la vita dell'uomo. Io sono ateo, devo vabbè, adesso Giuseppe, questo sacerdote però... in questo momento continua ad esercitare il bene e probabilmente, presumibilmente, lo eserciterà ancora a lungo, però nel frattempo è anche un pedofilo, commette delle cose orribili. E allora? Il vescovo che denuncia il sacerdote comprometterebbe tutto il bene che lui ha fatto. tanto per cominciare. Ma io non ho capito, tu ci stai spiegando, ci stai spiegando o sei a favore di questa roba qua che ha sempre attuato la Chiesa? Non ho ben capito. Se io fossi un vescovo non denuncerei, se io fossi laico, quale sono, denuncerei. Sì, Giuseppe, non ho capito la differenza, però. Tu sei bagato in testa, secondo me, un vescovo, anche se non è cittadino vaticano, è comunque un cittadino di questo paese, anche se fosse solo cittadino vaticano, avrebbe il dovere, oltre che, come dire, la coscienza morale, lascio stare la parte morale, io, che dovrebbe essere preponderante in un uomo di fede, no? Quello, certo. Penso, se uno è di fede. No, ma Giuseppe, ma l'abbiamo capito il perché. Io non ho capito perché un vescovo, secondo te, non deve denunciare. L'ho appena spiegato. No, ma lo sappiamo perché. Ma che vuol dire gettare discredito? Persone votate al bene, ma al contrario, scusa, ma è più importante questo oppure la salute dei bambini che un prete magari poi incontrerà? Scusami. Certo, è chiaro quello che dice. No, ma è chiaro quello che dice. Prima ti contraddici. Come dice, scusi? Allora ti contraddici, scusa, non ho capito. Niente affatto. Ciò che ha commesso il sacerdote è orribile, contrariamente a quanto afferma l'ascoltatore. E allora? Il signor Maurizio, è orribile, senza ombra di dubbio. Ma se noi fossimo nei panni del vescovo, capiremmo. Senti, amico mio, noi per fortuna io non sono. Per fortuna io non. Interna, sì, magari trasferirlo in Africa per 6 mesi. Non bisogna trasferirlo nelle patrie galere, non in Africa. Che vado, perché io vedo i bambini vescovo, africani. Che fai? I bambini africani sono meno degni di essere protetti? Ma che vuol dire? Sono meno degni di essere protetti? Sei un razzista? Allora può andare in Africa a stuprare? Può andare in Africa a mettere addosso le mani ai bambini? Ma di che parliamo? Ma non dai, è così semplice, mi scusi. Ma è semplicissimo. Ho una notizia di un reato. Ho la notizia di un reato, vado dal magistrato, vado dalla polizia, vado dai carabinieri, quali poi fanno le indagini, scoprono se è vero o non è vero, perché le indagini non è che le può fare il signor vescovo, capito? Non è che c'ha i carabinieri, il signor. Io non mi metto nei panni del vescovo, me ne fotto del vescovo. Se il vescovo sa di un bambino che è stato toccato, di genitori che denunciano, di un prete chiacchierato, ha il dovere non di fare a umma, di sostituire, di fare, di spostare, di coprire. Chissà per quanto tempo, va dalla polizia italiana, dove c'è scritto carabinieri, entra dentro, incontra un carabiniere e dice: "Senti, io ho avuto questa notizia, potete verificare se la cosa è vera o non è vera?" E quelli verificano, certo, con gli strumenti delle indagini, cosa che il signor vescovo non ha e non può avere, chiaro? Quello che dice lei è logico. No, è logico. È una cosa reale. Fare, non è logico solo. Comprende che andando a denunciare lui potrebbe compromettere l'operato di molti altri. Ma chi se ne frega? Ma ce ne sbattiamo i coglioni di queste cose. Sì, vogliamo i colpevoli in galera, laici, i pedofili in galera. Luciano da Padova. Noi laici, ma non ce ne frega niente a noi. Luciano da Padova, non ce ne frega nulla. Luciano, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai Luciano, dimmi. Dai. Lucianone. Io sono d'accordo con te per quel che riguarda allora? I pedofili. Ci mancherebbe pure, allora? Semplicemente per il fatto che la complicità del vescovo c'è. Qualsiasi reato commesso da un cittadino di cui un altro ha conoscenza e non lo denuncia è complice. Giusto, per me si potrebbe arrivare addirittura al vertice, io ho detto ieri, al vertice della mafia, della gang. Stai dicendo che la Chiesa è la mafia. Io vorrei portare un esempio. In alcuni casi. Ma come fai a dire? Quella di Marcinkus che cos'era? Ho detto in alcuni casi. Ma no, ma non giocare, perché bisogna semplificare. Ho detto in alcuni casi. Lo IOR guidato da Marcinkus era un'associazione delinquente. Lo IOR guidato da Marcinkus. In alcuni casi si comporta da mafia. No, ma va selezionato. Il compito è quello di distinguere, non di fare mafia di tutto. Mauro. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Io volevo intervenire in merito al Raffaele da Milano, che ha detto che gli abusi sui bambini sono una cosa da poco conto. Sì, Maurizio. Maurizio. A me è capitato una sera, tornando io lavoro via, sono in macchina, mi fermo in un'area di sosta per far pipì. Sì, che fai, camionista? No. Viaggio per lavoro, per allestimenti di negozio. Praticamente mi fanno questa di servizio, finché faccio pipì vedo un'ombra che sbuca dietro un camion. Che è successo nelle famose piazzole? Mamma mia, siamo tutti in attesa di sapere. Io sì, sono in attesa, assolutamente. Vai. Insomma, questo qua mi gira indietro la macchina, io facendo finta di niente, faccio in fretta, entro in macchina e mi chiudo. A un certo punto accendo il quadro della macchina, come accendo i fanali, questo qua si è piazzato davanti alla mia macchina, sì, al buio, sì, e ha tirato fuori tutto quanto. Cioè ha tirato fuori l'uccello, tutto, genitali, sì, tutto. Sì, sì, tutto. Vabbè, un racconto. Okay. E mi guardava verso l'abitacolo con l'aria, sì, di uno che voleva provocare, no? E allora? E ti dico che questa esperienza qua mi ha creato... A me che sono una persona adulta, sì, che anche naviga sul porno, non è che mi interessa niente. Però per una roba del genere ho sentito un senso di disgusto e non oso neanche immaginare un bambino. Io mi sarei messo, messo a ridere comunque. Mettiamoci nei panni dei bambini. Vabbè, ma è questo, una ragazzi, violenza psicologica, oltre che fisica. Ma questo lo sappiamo, non c'è bisogno di questo racconto. Non è una cosa da poco, deve solo vergognarsi. Basta. Va bene, Antani Taranto, che ci vuole dire Antani da Taranto? Buonasera, siccome Giuseppe mi ha detto di chiamare che si stava facendo un cannone, allora siccome ero lì in procinto, vai, facci sentire una boccata, facci sentire un tiro un tiro via rai. Ma ti stai facendo veramente una canna, Antani? Stavo per farmi un cannone, sono in macchina, appena arrivo a casa me lo faccio. Marijuana o hashish? Marijuana, perché me la coltivo da solo, c'ho quattro piantine. Ottimo, bravo fratello, ottimo. Marijuana è più sana, l'hashish è un po' più... Però scusami, sì, adesso sì, che c'hai chiamato a fare? Ma la hashish o gianca? La gianca? No, è una varietà che si chiama autofiorente, che nasce anche qui in Puglia e quindi... Autofiorente, anche... Però scusami Antani, a parte che non credo che tu ti chiami Antani sul serio, però dimmi una cosa, chiamaci quando stai per... No, quando fai qualche tiro, così vogliamo sentire... Avevo paura di non prendere più la linea, perché magari... Non ti preoccupare, chiama dopo, ti chiamiamo noi. Fra quant'è che ti fai una canna? Mezz'ora, tre quarti d'ora? Quanto no, anche un quarto d'ora già la sto facendo. Vabbè, dopo le 8 ti chiamo, va, ciao Antani. Grazie, ciao. Gaetano Saia, l'altro giorno in galera. Risentiamo qualche cosa, perché voglio chiamare la moglie, eh? Voglio chiamare Maria Antonietta Cannizzaro, anche lei del Movimento Sociale Destra Nazionale. Di che cosa vive? Di che cosa vivo? Oltre a fare circhi. Dei soldi che mi passi tu facendo il finocchio per strada, il travestito, no? No, però seriamente la domanda è... Ma di che cosa vive? Lorenzo, fai il finocchio e mi porti la grana, no? Ma di elemosina si vive? Ma stai zitto, buffone! Di elemosina si vive? Tu di che cosa vivi? Dei soldi che prendi nelle varie televisioni? Quest'uomo in galera 3 anni e 10 mesi, ricordiamo. Che giornata memorabile, il più bel regalo di compleanno, il più bello. Pisano l'ha definito un patacaro, sedicente 007. E tu sei un travestito, non è un'offesa essere travestiti. Ma sta zitto, perché si travesta, poi non lo sanno tutti. Allora, non mi offendo, comunque io ho già rifatto con queste sue parole il tetto della casa, la cucina. Bravo. E pure il giardino. Aspetta, allora sei il ruffiano travestito finocchione, così ti fai pure. Ma scusi, bravissimo, perché, poveretto, questo è un poveretto, così è da internare il poveretto. Ma perché lei è così a casa? Ah, io li faccio. Allora io proverei a chiamare la signora Maria Antonietta Cannizzaro. Che bella famiglia che sono, che bella anche famiglia. Lei sempre in camicia nera, una bella proprio una bella famiglia. Telefono, sono. Vai. Pronto? Sì. Signora Cannizzaro? Sì, sono io. Sono Cruciani dal Sole 24 Ore, salve. Ah, è Cruciani. Sì, signora Cannizzaro, come sta? Allora, com'è questa storia incredibile? Mi sembra vergognosa questa cosa qui. Però Cruciani, sì. Ogni volta quando voi fate l'intervista a mio marito, con Parenzo, sono interviste brutte. Io un'intervista del genere non la voglio. No, fare. Per carità, io le sto chiedendo semplicemente una cosa incredibile, questo arresto. Ce lo racconti un po'. Ma un arresto che non si doveva fare, perché è un accumulo di situazioni che non erano mai state notificate a Saia. E non si sapeva nemmeno che c'erano due processi per lui, ma erano delle cavolate. Ma che condanne sono, scusi signora? Stupide. Una è per calunnia. Pure la polizia parallela c'era anche, no? No, la polizia parallela non c'entra. Quello hanno scritto una cosa abusiva, perché Saia è stata assolto in pieno, che ora prenderà anche i danni dallo Ma alla Stato. Fine quanto sono in tutto queste pene? 3 anni? 3 anni e 10 mesi, però, che non farà, perché adesso gli avvocati lo usciranno fuori, perché non è così, perché ci sta lavorando. Ma perché lo chiama Saia lei, signora Cannizzaro? Appunto.

cosa vuole denunciare? Ma guardi, ieri ero in radio e ho detto a quel frocio di Parenzo, che è un ebreo giornalista, che lo voglio cremare. Scusi, come dice signora? No, scusi signora, mi aspetta qua un istante. Ma non c'è un verbale da firmare? No, aspetti un istante. Marco ha puntato, vieni qua. Il signor ha puntato, arriva, dice: scusi signora, mi può seguire? Perché ho detto, dove devo firmare la denuncia? No, mi può un attimo seguire, la tratteniamo per accertamenti, la tratteniamo per accertamenti. Questa è la storia, quindi vada, così risparmiamo anche la volante che la viene a prendere a casa, signora. Io vi saluto, vi mando a fanculo, domani ci sarà la denuncia. Oh, perfetto, arrivederci, e risparmiamo che la vengano a prendere a casa. Arrivederci Canizza, arrivederci. Affanculo a tutte e due. Sì, arrivederci Canizza, come sempre. A posto, come sempre. Quanto, quanto si diverte, però, signora Canizza, non mica molla, quanto si diverte. Voi rubate i soldi. Sì, sì, sempre. Perché voi siete pagati inutilmente. Voi state rubando soldi e siete pagati anche tante. Tantissimo. Questo per fortuna anche, certo. Tantissimo. Tutto fin qua è tutto vero. Questo è tutto vero. Non preoccupate, adesso pagherete me e il mio legale. Tutto vero, tutto vero, tutto vero, tutto vero. Adesso pagherete me e il mio legale. Tutto vero. Signora, se le posso dare un consiglio, non da amico, se lei va alla questura e dice quello che è accaduto, secondo me non le conviene. Ma io la sfido. Andate, lo dica forte, lo dica forte. Andate a fanculo. Ma più forte ancora, lo dica. Di più. Più forte. Abbiamo trasmesso colloqui con la fascista Cannizzaro. Neofascista. Ragazzi, dai, su, ma come cazzo si fa? Su, come si fa? Poi ha detto anche una cosa grave. Cioè, tra le righe e tra le follie, ha detto anche... No, era meglio se venivi cremato. Sì. Cosa impossibile, sì, no, perché... In tutto questo voleva denunciare me. Per questa è la cosa interessante, no? Per presa per il culo del marito. Sì, in tutto reato questo, di presa per il culo di Saia. Ebreo, cremato, eh? Ma io vado a denunciare, dico, vada pure, cara. Vada in questura, racconti quello che è accaduto, vediamo cosa succede, a chi danno ragione. Fermi lì. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Parenzo fancazzista, Parenzo fancazzista. Mia moglie soffre di stitichezza. Ogni volta però che Parenzo compare in TV, corre subito in bagno felice. Parenzo, tu sei un gran pezzo di merda, perché un giorno o l'altro che qualcuno si romperà i coglioni di sentirsi insultato da te con le tue stronzate dei miserabili della feccia, viene lì da te e ti fa un faccione così, allora forse ti accorgerai che stai sbagliando. Nano di merda. Parenzo, ma che biancheria intima usi? Allora ragazzi, come al solito Parenzo divide, e questo è molto importante. Divide e timpera, sì. Questo è molto importante. Mi è piaciuto molto quel ragionamento che ha fatto quel signore in cui dice ti spacco il culo. Mi pareva un ragionamento... Nano di merda, ha aggiunto anche nano, ecco, di merda. Sì, ecco, grazie per averlo ricordato. Sì, mi sembrava un ragionamento interessante, cioè da considerare, insomma, no? Quando ti verremo a prendere... Sì, però è la pancia, ogni tanto. Quelli che ti odiano vanno anche conosciuti. Ma vanno, perché se non conosci l'odio... Sì, anche perché no, se non conosci qualcuno che ti odia, io guardo, non ti puoi nemmeno poco difendere. Tempo libero, non ti puoi nemmeno difendere. Poco tempo libero che ho, secondo te, lo posso passare con della gente così miserabile, secondo te? Maestro, no, ma dico, il poco tempo che ho a disposizione lo passerò facendo che cosa? Con i miei figli, leggendo un libro, con un'amica, con un amico. Ma nessuno ma se ti vuoi dice con che F. Ball al limite, ma non posso con Mauro, con Maurone da Mantova. Bravo, bravissimo, bravissimo. Non posso. Nano di merda. Ecco, questo signore qua, ad esempio. Allora, Michelangelo da Monza, vai Michelangelo, vai, vai. Allora, pronto? Sì, vai Michelangelo, dimmi. Niente, mi volevo agganciare al discorso lì del 16 anni, che comunque... Di, aspetta, alza la voce, che te sta a fare una canna pure te? Sì, cioè, tra l'altro, quando ho iniziato a chiamarvi l'ho fatta su. Ragazzi, però tu sei o sei in viva voce o stai all'auricolare, no, al solito. No, assolutamente niente, te c'è le paranoie con questo auricolare. Io c'ho le paranoie, te, sta fino a, te sei fatto una canna da poco, c'ho le paranoie io. Ma non è che devi fare di tutta l'erba un fascio, anche se la questione è quella. Cioè, non è che se mi faccio una canna c'ho le paranoie. E chi l'ha detto? Capito? No, te l'hai detto adesso. Ma ti stavo rispondendo perché tu hai attribuito a me la parola paranoia. Vai, Michelangelo, appunto, ti, sei, cioè, fatto una, so, ti sei fatto una canna, sì o no, adesso? Mi sono fatto un bel pernacchione, finito di lavorare, tranquillo, sì. Sì. Capito? Sto intorno sempre a quest'ora e niente, comunque la vita solita, si lavora. Cioè, quello che voglio dire... Sì, ma fammi sentire il tiro, fammi sentire il tiro della canna. Ma che cosa ti devo far sentire? L'odore, forte, l'odore. Me l'ha fatta salire male la Cannizzaro, cioè, mentre aspettavo, non è che era lunga 2 metri, era... tranquillissima, una normale. E come ti senti adesso? Come ti senti? Ma easy, cioè, tranquillo. Easy. Mi sento grande, Davide. Si è sparata la tromba, grande. Ma esatto, ma grande, ragazzi, fratello, bravo. Ma no, ma non è il fratello, cioè davvero. No, perché fratello un cazzo, uno potrebbe dire. Non è che tipo, con tutto il rispetto a Leoncavallo, però lavoro a Leoncavallo, lavoro in un tipo di contesto che comunque è quello che, se lo sanno, lavoro è un po' bigotto, no? Quindi, cioè, non è che sono lì che dico bella lì sto sulla panchina, mi faccio il trombone con soci, è una cosa un po' più, non lo so, un po' più deep. Vabbè, ma perché ci hai chiamato? Non ho capito. Per dirci che ti hai appena fatto una canna? No, vabbè, a parte quello che mi ha colpito tanto, però, cioè, mi volevo collegare al che si è buttato cioè, più che altro le parole della madre che dice di questa dipendenza, cioè, secondo me hanno ragione fino a un certo punto la finanza, tenendo conto anche che sentivo un'altra voce che diceva no, il procuratore dei minori ha detto che non era il caso di fare l'irruzione a casa, o comunque di fare la perquisizione a casa. Ma capito? Va bene, il procuratore dei minori ha detto che bastava una telefonata, in alcuni casi basta una telefonata, certo, non c'è bisogno di avere la finanza, per carità, uno sono poi d'accordo su questo, ma ascolta, Giuseppe, so forse più di voi come vanno queste procedure, perché comunque un parente t'hanno ingabbiato pure a te. No, un parente delle forze dell'ordine, so che si fanno varie cose. Però, vabbè, a parte questo, cioè, più che altro legalizzare, come dite voi, cioè, ragazzi, sì, non c'è svegliamoci. Non c'è dubbio. Ma svegliamoci. Legalize, cioè, it. Quanti soldi? Ma quante te ne fai dei cani, tu, Michela? Una al giorno te la fai? Sì, dai, una bomba al giorno te fai, dai. Per questo, ma i soldi, ma i soldi come te li quanto ti costa tutta questa fa? Poco? Insomma, io tieni conto che fumo, fai come minimo da 7-8, cioè comunque dall'adolescenza è iniziato così, come si dice qua in queste zone, con i frassoci, di qua, di là. Però poi, quanto spendi al mese, più o quante meno? Quante trombe al mese ti fai, dai, di media, quante trombe? Allora, una al giorno, detto. No, allora, di media. Ascolta, cioè, insegnate voi che comunque chi... perché io non è che mi spaventa dirlo, comunque è una dipendenza, comunque chi è dipendente non è portato tanto a contare, perché sa che comunque... Cioè, tu sei dipendente dal fumo, diciamo la verità, un po' sei dipendente, non ne puoi fare a meno. Il fumo è una merda qua, Giuseppe, solo erba. Solo erba, solo erba. Ma, certo, ma quanto certo. Molli, quanto te costa sta roba? Ma secondo me al mese tu hai 2-3 gambe, 200-300 euro. Vabbè, non so, si può fare, dai. Raffaele, sì. Roma, ciao Michela, vai. Ciao. Raffaele, Roma, vai, Raffaele. Pronto, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Ciao, sì, caro. Sì, vai, dimmi. Cioè, volevo mettere in evidenza ancora il fatto del ragazzo di Lavagna. Vabbè, dai, Raffaele, dimmi, che devi dire, sì, su perché, questo? Perché mi sembrava strano il fatto della madre. Lei non è la vera madre, lei è la madre adottiva. Non lo so, sì, la madre, me lo stai dicendo tu, magari non ho letto bene. La madre... io l'ho sentito del giornale. E allora che differenza c'è? Scusa, non ho capito. C'è la differenza. Qual è la differenza? Non ho capito. Cioè, non c'è il legame di sangue, lei dice, non c'è allora, quel legame di sangue. Non è un legame di sangue, è differente tra la vera madre e la madre ma adottiva. Che c'entra? Cosa vuol dire non questa roba qua? Cioè, cosa vuol questo. Dire? Una cosa è chi fa la madre che ha fatto il figlio. Io vorrei sentire la madre che ha fatto il figlio, non la madre adottiva. Ma che c'entra? Scusa, la madre che ha fatto il figlio è evidentemente nel corso o all'inizio o dopo, non lo so, no, in qualche modo. No, secondo me è stata proprio la madre che l'ha denunciato alla Guardia di Finanza. No, questo non risulta. Certamente la madre ha ringraziato la Guardia di Finanza. Quello che parlava, mi sembrava un politico che parlava. Dice a favore della Guardia di Finanza, contro le droghe leggere, esatto. Cioè. esatto, esatto. Vabbè, Daniele, esatto. Provincia di Terni. Aspetta, Daniele, aspetta, aspetta, devi dire? Ti voglio dire un'altra cosa. Per quanto riguarda i pedofili, per quanto riguarda i pedofili, sì, però vai veloce, amico mio, vai. Sono botte. Io a 12 anni sono stato aggredito. Sì, da chi? Mo tutti aggrediti sono stati. Sono stato aggredito. Sono stato, ascolta, scusa, sono stato aggredito. Ma da chi? Però, da chi? Non lo so perché non mi lo ha preso alle spalle. T'ha preso alle spalle. Però perché io sono una specie di animale. Che hai fatto? Gli ho dato la testata a marci indietro in bocca. Ma a chi? A chi? Aggredito non lo so, da chi? Perché non lo... Ma che ne sai che era un pedofilo allora? Oh, uno che ti prende sotto un androne di un palazzo in mezzo alle macchine. La cosa che mi ha fatto scattare tutta poi la violenza è stato il fatto che lui non parlava. Non parlava. E io sentivo solo il rantolo dietro alla mia nuca. Vabbè, ma che? Ma non ho capito. Questo qua che mi aveva incravattato. Io non toccavo a terra fino a quando non ho avuto un attimo dove sono riuscito a toccare. Come ho toccato, sono scattato come una molla all'indietro e gli ho dato una testata in bocca. Boom, boom. Lui mi ha sbattuto a terra. Sì. Però io a 12 anni gli ho corso dietro. Sì. Il figlio di puttana è riuscito a chiudere il cancello. Sì. Hai capito? Se riuscivo a sapere chi era, che facevi? Me lo mangiavo, cruciato, me lo mangiavo. Come te lo mangiavi? Come si mangia? A morsi. A morsi. Come si mangia? A morsi addirittura. Cioè addirittura gli strappavi il cuore? No, io non strappavo niente, me lo mangiavo. Strappavo il cuore, non strappavo il cuore. sono cose da ISIS. Non strappo niente. Ma lo sarei mangiato. Beh, ho capito. E lui ha capito che aveva sbagliato preda. Sì, perché tu sei come, perché sei come un animale tu. Sì. Io sono il dottor Jekyll da Mr. Hyde. Beh, ammazza, sei pericoloso allora, oh. Sono pericoloso, sì. Io sono uno pericoloso. Sì. Sei pericoloso. La consapevolezza. Perché sei pericoloso, che c'hai a casa? Pistole, fucili? No, che c'hai? Non c'ho niente, ho solo le mani. C'hai solo le mani. Ecco, ogni tanto reagisci così, sbrocchi e reagisci. No, allora ti racconto un'altra. Sì, racconto, facciamo l'epopea. Adesso, perché? Facciamo adesso mi sono trasferito, no? Sì, che hai fatto? Da un paio di giorni, stavo in autobus. Sì, e che hai fatto? Stavo in autobus. Suona un telefonino, mi giro e allora? E il tipo mi guarda e dice: che cazzo c'hai da guardare? Io stavo leggendo il giornale. Ma che sei matto, sei Terminator. Io stavo leggendo il giornale. Sì, allora? Mi giro e ho fatto finta di niente e mi sono girato. Il tipo continuava, il tipo era grosso, il tipo continuava a sbraitare. Comunque, poiché io sono un po' addestrato, insomma, in delle cose. Sì, allora? Sono alzato lentamente, mi sono chiuso il giubbotto. Sì. Io ho detto: ma mi vuoi conoscere? Io non ti conosco, ma tu mi vuoi conoscere? Ma sì, ma là, ma chi cazzo sei? Cosa qua parla? Qua parlano sempre col cazzo. Dove sono stato abituato io a vivere non si poteva parlare. Vabbè, allora? Allora, comunque io ho detto: guarda che se continui ti faccio scendere dall'autobus. Vabbè, dunque, com'è finita, Raffaele? Andiamo. L'ho preso per i capelli, l'ho girato, l'ho storto un po' il braccio, gli ho dato un calcio in culo, l'ho sbottato fuori dall'autobus. Una rissa, non mi credi, lo so, ti credo, ammazza, come aspetta, non ti credo. Però l'autista dell'autobus che ha visto volare. Raccontiamo questo episodio di vita, dai, questo episodio così. Ma è interessantissimo. L'autista dell'autobus che mi ha visto volare quello là acceso le quattro frecce e si è fermato. Ho detto: adesso devo scappare perché altrimenti qua in ultimo passo io il guaio che ho buttato questo stronzo fuori dall'auto, perché lo stronzo era 1,80 m e non era un bambino. Hai capito? Non ho capito un cazzo. Ciao Raffaele, ciao. Ciao. Daniele, provincia di Terni, vai. Ciao, buonasera. Dai, dimmi. Senti, io volevo solamente dire che ovviamente il tasso di pedofilia che c'è nella Chiesa è legato al fatto che nella Chiesa c'è un alto tasso di omosessualità. Che c'entra la pedofilia con la relazione, c'è relazione statistica, non è un'invenzione, non è che è un pregiudizio nei confronti degli omosessuali, tutt'altro. Però tra omosessualità e pedofilia statisticamente c'è un rapporto. È chiaro che i sacerdoti vivono una sessualità repressa, io conosco alcuni che vanno anche con le donne, non è, però chiaramente c'è una relazione. Ma qual diretta. Era la, non c'è nessuna relazione tra omosessualità e pedofilia? È pieno di pedofili eterosessuali. Ma che dici? Certo, ci sono anche quelli, mica dico di no. E allora che c'entra? Qual è la... Ma c'è statisticamente c'è una. Cioè, secondo te chi è gay è anche un po' pedofilo? No. Può essere gay anche senza essere pedofilo, allora? Ma c'è statisticamente una correlazione tra pedofilia e omosessualità. E quindi, niente. Chiaramente questo deriva dal fatto, secondo me, che la sessualità nella Chiesa per i sacerdoti è repressa . E loro chiaramente danno sfogo anche a devianze come può essere sicuramente la pedofilia. Ma non c'entra niente, cioè, legare l'omosessualità alla pedofilia lo fa lo fanno la professoressa. No, non è una follia, non è una cazzata, ragazzi, guardate, cioè, questi non qui vivono niente, una sessualità ma repressa. Non c'entra niente, allora, ma non c'è nessuna relazione. Tutti i pastori protestanti sono eterosessuali, no, ci sono pastori protestanti gay. No, e ci sono sicuramente. Ma è pieno di pedofili che non sono affatto omosessuali. Non dire stronzate, però, dai, Daniele. Tra i cattolici c'è una maggiore statistica. Ma che c'entra? Ciao. Guarda, fermo lì. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Cervo, dimmi cosa pensi di Cruciani. Lo ammazzo, gli spacco il culo. Cruciani, tu fai il lupo perché sei protetto dal microfono. In realtà non vali un cazzo, sei un vigliacco di merda. Appena esci fuori cammini muro, perché la gente se ti trova ti apre il culo. Ma la finisci di cercare di togliere le parole brutte, compromettenti dalla bocca della gente? Ma ti rendi conto che fantoccio di merda che sei? Ma dillo tu ste cose, ma dillo tu che sei contento se muore un cacciatore, ma dillo tu che sei contento se i pedofili... Ma sei un coglione, Cruciani, sei un uomo di merda! Cruciani, le tue mutande sono un crimine contro l'umanità, fai schifo. Cruciani, basta rompere i coglioni alla gente, porco cane. Cruciani, io ti ho chiamato per dirti solo una cosa. Tu sei il paradigma del decadimento morale della nostra società, perché non è possibile che un personaggio come te, la cui unica abilità è di sparare cazzate a destra e a manca, goda di tanto successo. Ciao. Che frega niente, nulla, zero. Ce n'è anche per me, Davide, hai sentito? Naturalmente trovo un clima. C'è Fabrizio da Milano, vai. Fabrizio sereno, da Milano. Un clima sereno. Fabrizio, vai. Ciao, Cruciani. Dimmi. Ciao, volevo dire una cosa a Parenzo. Sei un grande, veramente. Sei un grande uomo di merda, sei. Ma chi? Uno. A chi? A quella merda che... Ma perché? Che è successo? Non ho capito, che è successo? Di cosa sta parlando? Perché si butta così giù? Perché lei si butta così giù? Perché parla così dei suoi familiari? No, letto, ma non dica così. No, Fabrizio, che cosa ma vuoi? Ma non dica dimmi. Così della sua famiglia. Allora, perché definisce dimmi. Così allora, i suoi genitori? Perché? Io anch'io sono fascista e sono fiero. Abbiamo il numero di questo, vero? Abbiamo il numero di questo qua, vero? Sì, di telefono. Beh, ha detto che è fascista. Che ha fatto? Dimmi il numero di telefono. 3? Dammi il numero di telefono. 3? Dammi il numero di cellulare di questo qua. Sono tatuato dalla testa ai piedi. Bene, dammi il numero di questo. I tatuaggi sono fascisti. Dammi il numero di questo. Aspetta, che c'è nei tuoi tatuaggi? Dammi il numero di questo. Dopo te lo do, che c'è? Dammi il numero di cellulare di questo. La persona che è a fianco l'altro giorno, quando ci sono stati gli scontri di Bologna, non mi prendere in giro, Cruciani. Dammi il numero di questo qua. Lui ha fatto finta di fare l'imitazione di Capanna perché sì, è furbo, certo. Ma col suo pensiero era contento che dei ragazzi dei centri tutt'altro, sociali povero di sciocco. E ha fatto finta di imitare povero Capanna. Sciocco, cioè, povero sciocco. È un essere fascista. Povero essere, sciocco, povero sciocco. Ma che c'hai nei tuoi tatuaggi? Ragazzi, state calmi. Ma che c'ha nel Cruciani, cervello, non i tatuaggi. Cosa ti devo dire, Cruciani? Dimmi. Io due persone adoro veramente nella radiofonia. Siete te e Mazzoli. Però allora? Una cosa che Mazzoli è più di te. Lui, nello stesso programma di Mazzoli, lo so, c'è un certo Fabio Alisei che ha lo stesso pensiero di Parenzo. La gente lo insulta, ma lui, Fabio Alisei, prende e insulta le persone. Sì. Ma non si è mai degnato una volta di dire... di dire ti denuncio, perché sennò Mazzoli... Vabbè, ma ce ne freghiamo, ma che cazzo ce ne frega noi? Ma io denuncio, ma non ce ne frega niente. Ma non ce ne frega niente, Fabrizio, cosa vuoi? Vabbè, ma sono fatti di Parenzo, prenditela con Parenzo, cosa vuoi? Fascista, ma cosa vuoi? Non ho capito, fascista dichiarato. Dove si imprende per il culo le persone, ma che c'entra? Se vede, sì, ma il culo non si offende. Se lei offende, io la denuncio. Fascista, ma carcere, carcerato, cioè, di un fascista condannato, di un fascista condannato a tre anni e dieci mesi. Ma lo sai che comune, e io esulto, ma non me ne frega niente. Ma che c'entra? Ma non me ne frega niente del comunismo. Sono felice che un neofascista sia finito in galera condannato. Esulto, io comunista lo uccido gratis. Ti aspetto, mi dai il numero, non credo, questo, non credo, perché va in galera se lo uccidi, lo sai. Allora, questo? Come dice Parembo, cosa il numero, il numero di telefono. Ma che tatuaggi hai addosso? Che tatuaggi hai addosso? Tutti ce l'ho, metà, c'ho metà fascisti, c'ho. Ma che c'hai? Con che... noi contro di noi, molti nemici, molto onore. C'ho dietro Brevati gladiatore, con scritto molti nemici, molto onore. La faccia di Mussolini ce l'hai o no? La faccia di Mussolini. Per forza, io dormo con sopra l'armadio, sull'uccello l'ha fatta, però il naso è l'uccello, sarebbe lì l'ha fatta la. Faccia, bravo, è una bella idea. È una bella idea. Bravo, è una bella idea tatuarsi la faccia di Mussolini sui genitali. Questa è una bella idea, coraggiosa, sì, ardita. Come la faccia tua di Fidel Castro, ardita. Tutti voi, ma io non mi tatuo proprio niente. Tutti voi comunisti. Tu sei classico. Ma figurati, potresti tatuarla anche dietro quella di Mussolini, no, sai? Funziona. Funziona. Falla, che sei un molusco, certo, e l'altro falla. Cosa gli dici Fabrizio all'altro ragazzi, aspetto sotto casa e ti do una testata. Fabrizio, ma che cazzo da Milano, che hai il numero di questo sega, qua, vero? Ce l'abbiamo, fermo di là qua. Fauri, oh, Fabri, mio, ma... mio fermo che mi hai rotto i coglioni, aspetta, mi hai rotto i coglioni, devo chiamare Sgarbi, fermo, devo chiamare Sgarbi, fermo là. Vittorio? Eccolo. Come andiamo? Eccolo qua. Benissimo. Senti, ma hai visto che alla fine i grillini hanno ceduto sullo stadio della Roma, eh? Hanno ceduto. Beh, hanno fatto esattamente l'opposto di quello che aveva detto la De Pensante quando era l'opposizione. Esatto. L'intervento del 3 dicembre del 2014 contro Marino. Sì. Che alla fine dell'anno approvò lo stadio con l'orrore, lo schifo e la violenza e la totale devastazione dell'agro-romano che comporta. Oltretutto Frongia aveva fatto numerosi interventi violentissimi e tecnicamente ineccepibili. Sì, sì, mi ricordo perfettamente. Ma che è successo secondo te? Si sono venduti ai palazzinari? Sono venduti, non posso dirlo, ma certamente sono inaffidabili e Grillo deve vergognarsi di avere della gente così e gente che in nome della speculazione più selvaggia riporta a Roma dove non era mai stata, perché neanche la democrazia cristiana aveva fatto cose così violente. Addirittura, ma tu pensi veramente che quello stadio sia un errore? No, questo lo pensa qualunque persona di possesso, lo sta, a parte quel cretino, no, sì, poverino, insomma, quel depensante pure di Totti che dice famo lo stadio, metti a posto lo stadio Flaminio. Se vuoi fare lo stadio, non è che devi correre in salita i grattacieli. Quindi fai lo stadio, si chiama stadio. Vabbè, però lo sai, però lo sai che accanto allo stadio per guadagnarci, certo, uno ci fa appunto, anche i ristoranti, i grattacieli. Puoi fare i ristoranti, ma non è detto che deve fare i grattacieli. Puoi fare uno sviluppo in orizzontale, no? Quindi ma per cui alla fine che è successo? Si sono piegati, che è successo? Cioè, non sono io in grado. Lo trovo ripugnante, cioè trovo che Polpetta abbandonata lì. Patata lessa, patata bollente, sia niente rispetto alla puttaneria. Cioè, questo è proprio un atteggiamento di una che non ha una parola. Poi sarà la cementificazione, come lo fai? Quello fai i grattacieli di legno. Sì, no, quello è vero. Ma poi c'è stata questa cosa, famo lo stadio con Totti in prima fila. Io ho sfidato Totti dicendo: vieni a spiegarmi perché. Vuoi lo stadio oppure vuoi correre in salita sulle scale del grattacielo? Lo stadio si chiama stadio, fai lo stadio. Chi è che è contro uno stadio? Sì, certo. Se lo stadio è il pretesto per fare una speculazione su un'area che anche se limitano nei metri cubi è comunque un'area in cui gli elementi importanti sono i grattacieli, perché hai un'area stretta su cui costruisci in alto, fai un'operazione che non ha niente a che fare con lo stadio. Per cui alla fine c'è ragione. Vergognare. Chi è che si deve vergognare? Totti? La Raggi? No, Totti non sa quello che Ti ricordi la volta che gli dissero Totti, carpe diem, e lui rispose io non parlo l'inglese. Vabbè, però cioè, fa il calcetto, cioè, non sa che... quello che dice, vabbè, non è compito suo essere intelligente, no, diciamo, dai. No, intelligente, no, sapere le lingue, insomma. Ma non è che dice famo lo stadio, vuol dire famo i grattacieli. Dica famo lo stadio e fate lo stadio e non rompete i coglioni. Grattacielo lo metti nel culo di qualcun altro. Dunque adesso... ha ragione questo Berdini alla fine, questo che se n'è andato. Berdini, cioè, era perfetto, Berdini era intelligente, a parte che ha detto... Noi abbiamo inventato dei pensanti attribuendolo a Grillo, sì, le telefonate, certo. Sì, sì, però parallelamente, proprio nelle stesse ore, quello diceva impreparata, sì, sì, però sì, la stessa sì. cosa, ha negato ma l'ha detto, quindi c'è una convergenza per cui Grillo per un verso e Berdini per l'altro sanno perfettamente che questa è depensante e impreparata. E è la stessa cosa delle nostre telefonate con il vero e falso Grillo. Certo, uguale. Di fatto ha negato quello che ha detto, cioè... vero e falso, qui si confondono. Impreparata l'ha detto e io ho detto del pensante, quindi in realtà c'è un parallelo esatto. Se poi lui nega e viene fuori invece che l'ha detto, meglio, vuol dire che stiamo parlando del pensiero recondito. Ora è assolutamente il pensiero certo, recondito, è assolutamente certo che nel suo il pensiero recondito, recondito o il non pensiero potremmo anche definirlo. Quello di Grillo, nel pensiero sì, no, quello recondito di Grillo, il non pensiero. Sicuramente lui sa che è una depensante, però gli conviene fingere che è brava. E quindi il problema io però dico una cosa, ma sì. Siamo sicuri che tutti, perché Di Battista e gli altri dei 5 Stelle dicono noi abbiamo sempre detto che lo stadio l'avremmo fatto, sì, ma non così, non con no, no, hanno sempre detto il contrario. Io ho fatto pubblicare da Specchia di Libero le dichiarazioni di Frongia e della De Pensante fatte nel 2014, nel dicembre, sono pubblicate, quindi le loro dichiarazioni dice è un'operazione meramente speculativa solo per vantaggio dei privati. È finita così. Le mie parole di oggi sono quelle di ieri della Raggi. Perché non ti candidi alla segreteria del PD con tutto sto casino che c'è? Sai come l'ho chiamato adesso il PD? Sì. Partito disperso, PD. No, ma con tutte queste potresti anche tu a questo punto ambire scalare alla... il PD. Certo. No, adesso devo dirti una cosa che dovrà farti riflettere. Sentiamo. Noi abbiamo deciso alle tue spalle con l'amico Cruciani di fare una lista a Padova di Rinascimento. Beh, ottimo. O tu ti candidi veramente e ti appoggiamo, oppure con cinismo assoluto appoggiamo Bitonci. Però non è che tu puoi traccheggiare. Ti candidi, ti diamo il Rinascimento. Non ti candidi, siamo costretti a appoggiare Bitonci. Mi sembra, no, la notizia è questa. La lista Rinascimento sarà presente a Padova. Lo possiamo dire per ufficialmente. Ma guarda, però scusami, non puoi appoggiare Bitonci. Bitonci pensa che Giotto sia una matita con cui fa colorare i bambini. Vabbè, se tu ci prendi per il culo, non ti candidi. Allora, o te, o Bitonci o Parenzo. Rinascimento e la Zanzara insieme, perché sarà una lista con scritto Rinascimento, Sgarbi e la Zanzara scritto sotto. Sì. Si candiderà a Padova comunque, e se Parenzo si candida bene, altrimenti appoggeremo Bitonci. Noi Bitonci, quindi sei devi misurarti. No, io sono pronto a candidarmi per il mio programma. Io sono a favore, ad esempio, della costruzione di una bellissima moschea in città. No, noi esempio, no. Noi programmi ci portano un cazzo, tanto sì, infatti, programmi sono delle di quel cazzo che ti pare, tanto appena arrivi lì la moschea non la fai. Non penso io faccio un programma di cemento e fare una sinagoga. Anzi, due sinagoghe. Ci sono già quelle, però. Ma sì, altre due. Ma noi le facciamo più ampie, più grandi e più belle. Altre due, che cazzo ci vuoi? Il nostro obiettivo è convertire all'ebraismo tutti i musulmani. Ma questo potrebbe essere un buon quello che si dice non conta un cazzo, dai programmi, queste cose qua. Programmi. Comunque, la lista di... Io voglio rendere più sicure... Voglio rendere più sicure, ad esempio, lei. Se uno dice voglio rendere più sicure le case, la città, beh, uno dice, ma perché non è, può essere uno contrario a questo? No, quindi voglio rendere più sicura la città. Ecco, questo voglio farlo sicuro, più sicura voglio renderla. Vabbè, noi siamo con te. Vabbè, comunque la notizia è questa, Rinascimento candidato a Padova, se Parenzo non vuole, sicuramente in appoggio a Bitonci. Esattamente. Diciamo che noi gli diamo il diritto di predatore, ma siccome non si candiderà perché fare i suoi bei comodi, tutto così il bullo, poi alla fine faremo la lista Parenzo per Bitonci e sarà la vera tragedia di Bitonci. A parte gli scherzi, no, ma è vero che ci potrebbe essere una lista Rinascimento in appoggio a Bitonci, anche con l'appoggio del sottoscritto. Con l'appoggio indiretto del sottoscritto, caro Parenzo. È una sfida, Parenzo. Pirenzo, fai vedere i coglioni. Tira fuori i coglioni. Adesso rifletto se candidarmi. Devo un attimo per consultarmi. Evasivo. Va bene, Vittorio. Ciao. Bravi, viva la gnocca. Sempre, comunque. Sempre. Ciao. Anche Padovana. Anzi, viva la patata bollente. Viva la patata bollente. Viva sempre. La patata bollente. Asta sempre. Perché quando poi è bollita, sì, è molto meno attraente. Lo dice la parola stessa. Ma non è vero, perché tu invece, a te invece la patata bollita piace assai. Eh sì, lo stiro lo Ius Ultima Noctis. No, non solo, ma a te piace anche quella col pelo. Ricordiamolo. Sì, vabbè, quello questo. Diciamo, sì. Ricordiamolo che di solito, sì, che di solito non appartiene alla patata giovane, come dire, no? No, vabbè, dipende anche dalle dipende anche quello, sì, dipende anche quello, dipende anche comunque quello. Viva la patata bollente. Ciao. Viva sempre. Ciao, ciao, ciao. E adesso la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, volevo solo dirti una cosa, che da quando ascolto la Zanzara nessuno deve salire nella mia macchina. O sali e stai zitto, perché io devo solo ed esclusivamente ascoltare la Zanzara. Ecco come mi avete ridotto. E cosa ne pensi della Zanzara? È una cagata di programma. Sì tesoro, oggi Beethoven? Beethoven, ok. Ascoltiamo invece la Zanzara. Grande scelta, grande scelta, amico mio. Riccardo, provincia di Cuneo. Che cazzo è? Mi avete scritto Cuneo. Io Riccardo. Ancora non capisco quelli che ascoltano questa trasmissione. Richiamate Riccardo, dai. Fabrizio da Pescara, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ciao caro. Allora, io volevo dire che prima ho sentito, se non mi sbaglio, un ascoltatore che ha detto che la Chiesa ha fatto bene a non denunciare quel prete pedofilo. Sì, un cretino, dai. Perché sennò avrebbe oscurato bene. Io ho conosciuto quel prete, anche quale? Se quale? Fa. Don Gianni? Don Gianni, sì. Perché allora? Lui era a Pescara in un istituto dove stavo. Sono rimasto sorpreso nel sapere che era lui il prete pedofilo, perché non lo sarei mai aspettato, quindi credo che bisogna dubitare di chiunque. Però volevo dire questo. Cioè, se io ho un figlio, se sapessi che nella scuola calcio dove era mio figlio c'è un prete che è stato o una persona che è stato un prete e un pedofilo e la Chiesa non l'ha denunciato, io do ragione a quel papà che era stato il papà di quel bambino che è stato disturbato, che ha detto che avrebbe meritato l'impiccagione, ma non solo lui, sì. Perché lui è un malato, è un disturbato. Ma i preti che non l'hanno denunciato, loro meritano il... Ma ragazzi, ma lì c'è una responsabilità che va ricercata a monte, perché questi qua ricevono anche istruzioni per non denunciare. Perché quando io dico un po' sì, provocatoriamente la colpa alla fine è del capo assoluto di quella ma roba no, lì. Ma che c'entra? No, ma come non c'entra? Ma guarda il caso di Crema, quando un prete non hanno voluto dare fino all'ultimo, Bergoglio non ha voluto dare i documenti alla magistratura. Ora questo qua non era più in grado di nuocere, naturalmente. Poi ha patteggiato, per alcune cose che ha fatto ai ragazzini. Però alla fine non hanno voluto dare i documenti ed è stato Bergoglio a decidere alla fine. Per cui, cioè, alla fine è responsabile di quella roba lì. Anche dei vertici, sì, sì. Ma certo, ma dai. Quali vertici? Allora no, vabbè. Fabio da Rieti. Fabio. Ciao ragazzi. Dimmi. Allora, a proposito delle cannette, io che ho un figlio di 16 anni, sì, sentire quella persona che ha chiamato poco fa e diceva che la figlia tranquillamente si faceva le canne, cioè io se mio figlio 16 anni, sì, e scopro che si fa una canna, io gli sparo due calci nel culo e gli faccio arrivare le chiappe in gola. Sì, così quello si fa l'eroina. Perché poi. No, non è possibile. Dai, non è possibile. Ma che è un modo di affrontare le cose? Gli dai due calci in gola? Assolutamente sì. Sì, solo perché si è fatto una canna. Invece, se fai una bottiglia di whisky, che fai? Senti Giuseppe, ma tu ti rendi conto quello che cazzo si fumano questi giovani? Ma che c'entra quello che si fumano? Ma io non ho detto che è un bene, non ho detto che è un bene, ho detto semplicemente che a 16 anni ti fai le canne. Può essere un problema, naturalmente, ma se tu lo affronti... Ma io appoggio totalmente Salvini. Ammazzate, vabbè. Che ha detto due ceffoni, io invece gli do due calci nel culo. Fabio, ma sono io ti do una paghetta di 50 euro e so che tu te le spari in fumo di nordafricani che non si sa che cazzo c'è dentro. Perché gli italiani non hanno spaccio, non ho capito. Gli italiani non spacciano. Vabbè, invece. Italiani è la stessa cosa, c'è della schifezza dentro. È uno che si deve accannare e non capisce un cazzo dopo che si è fatto la canna, perché non capisce un cazzo. Io gli sparo due calci nel culo. Oh, e spari due calci nel culo, che te devo dire? Ciao Fabio, ciao, ciao, ciao. Oh ragazzi, a proposito di droga, qualche giorno fa è venuta fuori una notizia che riguarda un personaggio locale di Vicenza, abbastanza conosciuto in quel posto, si chiama Quero, Matteo Quero, ha fatto l'assessore per un periodo, poi l'amministratore locale, cioè era stato nominato dal sindaco di centrosinistra di quella giunta ad amministrare una municipalizzata, un'azienda locale, il quale ha avuto, una volta era stato sorpreso, non ha voluto fare l'alcol test, era un po' brillo, un'altra volta pare che gli hanno fatto una multa perché si era accostata a una lucciola, si era dimesso da assessore. L'hanno pizzicato in Germania, dove ha passato una notte in galera, poi è stato liberato, con 15 kg di hashish, di marijuana e 7-5 di, insomma, grossi quantitativi di droga leggera. Il sindaco di Vicenza l'ha cacciato dall'incarico che aveva. Ora io lo vorrei chiamare questo signore, perché mi dicono che è uno abbastanza sveglio, abbastanza, come dire, no, pronto alla risposta. Cioè non è uno che dice, no, che si cosparge il capo di cenere. Per capire che gli serviva tutta quella droga in Olanda. Beh, probabilmente a fumarsela da solo, però chissà. Pronto? Pronto, Quero? Chi parla? Sono Cruciani, come stai? Ah. Come andiamo? Insomma. Ma che è successo con questa storia della droga? No, lascia perdere. Cioè? Come mai c'avevi tutta sta droga? Cioè, droga, marijuana, hashish, sì, droga naturalmente. Come mai? Che ci facevi con tutta sta roba? Me la tenevo. Era per te? Certo. Cioè, uso personale? Sì. Cioè, così tanta? Vabbè, sì. Vabbè, per carità. Ma perché tu vai in Olanda ogni altro giorno? No, tu dici perché è più buona, là, perché l'hai presa là in Italia pure, poi si può trovare la marijuana. No, io non do i soldi alla mafia. Beh, lì è legalizzato. No, ma è giusto, non è sbagliata. È molto coerente in questo, molto coerente. Cioè, non è sbagliata come cosa. Allora, il discorso è molto semplice. Qual è? Sì. Qual è? Sono una persona normale. Sì. Che lavora molto durante il giorno. Sì. E che la sera, invece di bersi una bottiglia di vino o una bottiglia di whisky o prendersi del Valium e dare i soldi alle case farmaceutiche, è all'antica e o beve un tè o si fa una canna e dorme e basta. Non faccio nient'altro. E quante te ne fai di canne? Ogni sera? No, quella lì mi serviva per i prossimi 2 anni. Lo sai che sono quantitativi, che se ti pizzicano comunque qualcosa può succedere? Adesso non so quale sia la normativa in Germania, però è evidente. Non lo so nemmeno io. Alla fine che ha fatto? Te l'hanno sequestrati o no? Certo. Te l'hanno sequestrati? Mi hanno sequestrati, ma mi hanno rilasciato perché hanno capito che stavo dicendo la verità. Beh, adesso in città ti vedono come una specie di mostro. Guarda, allora stai parlando con il diavolo in persona. Ok, passo per alcolizzato, puttaniere, drogato. Sì, in realtà, cioè, io lavoro come un negro, faccio un mazzo da paura. Sì. Ok, ho famiglia e figli e la mia disgrazia è che una sera sono stato fermato dopo una cena e aver bevuto con amici, dove ho fatto la stupidaggine di non fare l'alcol test. Sì. E questo giro perché non volendo dare però, soldi alle mafie, non volendo dare soldi alle mafie, ok, me ne sono andato in un posto legale per prendermela e non dare fastidio a nessuno. Però tu hai un incarico pubblico. Cioè, io non ho fatto del male a nessuno. Ah, figura, a me lo dici, però hai anche un incarico pubblico, questo è il questo punto. Sì, questo è il problema, purtroppo. Il sindaco ha avuto perfettamente ragione. Però tu sei in grado di svolgere qualsiasi incarico anche se ti fai una canna a sera? Beh, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Mi ha messo, non lui, ma l'amministratore unico del gruppo a capo di un'azienda che portava centinaia di migliaia di euro di perdita l'anno. Sì. E da quando ci sono io è sempre in utile. Per cui uno si può fare tranquillamente una canna ogni sera, come tu hai detto, spesso. Ma io non mi faccio le canne tutte le sere. Vabbè, quante te ne fai? Te ne farai 3-4 a settimana? Vabbè, va bene, ok, ci sta anche 2-3, ma dipende, se uno se sta male alla tosse non fa niente. Cioè, no, ma uno può svolgere tranquillamente il suo lavoro anche facendo queste cose, tranquillamente. Ma scusa, se no in Olanda non lavora nessuno. Allora, la marijuana che cos'è? È una pianta. Sì, ma no, ma certina, no, certo. No, scusa, perché droga, Non è droga, secondo te? Non è droga? Stiamo parlando di una sostanza. Droga leggera? Droga leggera? Sì, certo, ma stiamo parlando di marijuana, è una pianta. Che cosa vuoi dire a Vicenza? A Vicenza, fatevi gli affari vostri, io posso fare l'amministratore anche fumandomi le canne? No, io voglio dire semplicemente che questa è la mia ultima telefonata pubblica, perché non vedo l'ora di ritornare alla mia vita semplice. Tua moglie che dice? Mia moglie non dice niente. Cioè, la tua famiglia di fronte a queste cose che sono successe, che dice? È solidale perché ha capito, mi conosce. Anche quella volta che sei andato a prostitute? Anche quella volta tua sorella è andata a prostitute, io non sono andato da nessuna parte a prostitute. Quando ti sei fermato? Quando mi hanno fermato, ero in un luogo che era pieno di prostitute, però lì c'era una sanzione che doveva essere comminata. Io leggevo assessore antilucciole fermato con le lucciole, me lo ricordo. Sì, ma è fatto salvo che io non sono mai stato fermato con le lucciole, fatto salvo che io quella multa da 500 euro non l'ho mai presa. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Oh ragazzi, questo qua ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto: io sono andato in Olanda e mi sono preso 15 kg di hashish, marijuana, eccetera, eccetera, perché non voglio dare i soldi alle mafie, lì è tutto legale. Sì, questo è non tutto è sbagliato. Legale. Ragazzi, dai. No, non sarà sbagliato, sarà certamente sbagliato. No, prendere ho detto non è sbagliato grandi quantitative, l'idea. Tant'è che l'hanno pizzicato in Germania. In Germania probabilmente certo. Quelle robe lì non sono legali. Certo. Grammi, che so, 15 grammi, sì. No, però non è sbagliato il principio. 150 grammi, a guarda, 150 grammi, vabbè, chili, grammi, che cazzo che è, uguale, dai. Va bene, Riccardo, provincia di Cuneo, vai. Buonasera signori, visto che l'argomento di stasera è, mi pare di aver capito, le schifezze della chiesa e la droga, io purtroppo sono quel povero stupido che è finito indirettamente sui giornali per essere il socio di quel sacerdote riportato da tutta la stampa nazionale, che è stato arrestato in un orgione di transessuali con un etto di cocaina a Milano dopo che aveva coinvolto il sottoscritto nell'apertura di un locale. Scusi, perché no, aspetta, andiamo con calma. Allora, mancava lei è, la telefonata. No, questa è buona. Sì, ottimo. Riccardo, tu sei questa è buona, signor Palenzo, veramente. Buona, è reale più che altro. Tu eri socio, ripetiamo cosa faceva esattamente. Esatto, eri socio di quale? Perché abbiamo ascoltato nei giorni scorsi la storia di Don Contin. Questo non c'entra niente con Don Contin. No, assolutamente, parliamo di qualche anno fa. Io avevo dei locali in una nostra località turistica e questo sia un carissimo amico, questo sacerdote è un amico fraterno del quale si era innamorata anche la mia famiglia. Come si chiamava questo qua? Non mi ricordo. È sui giornali, basta digitare su Google Don arrestato in un orgione transessuale cocaina, viene fuori. Vabbè, allora? Apriamo questo locale, così almeno tutto quello che guadagniamo verrà utilizzato per la pastorale giovanile che insieme ad altri ragazzi facevamo, ad altre persone facevamo. E verrà utilizzato per che cosa? Verrà utilizzato per cosa? Per la pastorale giovanile. La pastorale giovanile, vabbè, questo è quello che ti diceva lui. A livello giratorio eccetera, poi i soldi venivano utilizzati evidentemente in dark room, locali equivoci eccetera, e poi per farla breve è stato arrestato in una serata con transessuali e un etto di cocaina in un appartamento di Milano e mi risulta c'è ancora gli arresti domiciliari. La cosa sul quale bisogna mettere l'accento sono le cose sul quale bisogna mettere l'accento. Ma tu eri socio inconsapevole, a tua insaputa questo faceva le orge e se pipava la cocaina? No, la cocaina è arrivata dopo che le orge le facevate insieme? Via, mi ha fatto spendere 140.000 euro in sostegni vari all'attività eccetera, che poi evidentemente chissà dove finiva i soldi. Però spiegami una cosa Riccardo, tu eri socio in che cosa con questo sacerdote? Un disco bar. Un bar. Io avevo già attività faceva, similare, facevate, faceva, a parte un prete che è socio, sì, già un questo, già è questo abbastanza comunque, anomalo. Ma perché no, hai fatto devo darvi una piccola giustificazione a favore della mia stupidità. Io sono nipote di un vicario generale, di un vescovo, e mio zio, che conosceva la questione, non ha mai detto niente, neanche a suo ma nipote. Ma perché avete fatto questa società per aprire un bar? Facevamo già attività giovanile per i ragazzi, e usiamo questo locale, quello che tu hai già i tuoi, io sono ricco di famiglia, diceva, questi soldi che arriveranno li useremo solo per i ragazzi, per portarli in Terra Santa, per portarli. Ma hai partecipato alle orge del prete o no? No, grazie a Dio no, ne ho fatte altre in gioventù, ma non quelle di sicuro. E dunque, questo con i soldi che gli hai portato tu, che ha fatto? ma con quello che arrivava i soldi non bastavano, chissà dove finivano, e noi continuiamo a finanziare con le altre mie aziende, continuiamo a finanziare questo pozzo di San Patrizio, e poi dopo chissà dove finivano i soldi. Poi posso immaginarlo, posso supporlo dove finivano i soldi, anche perché allora questo qua è Milano, parroco condannato a 4 anni per spaccio di droga, fu arrestato durante un coca party, servizio in provincia di Verbani, aveva ammesso di fare uso di droga per la depressione dopo una condanna per truffa, il processo con rito abbreviato, vabbè. Esattamente, poi condannato a 4 anni di reclusione, mi penso sia ancora gli arresti. Ma la cosa da Stefano Maria Cavalletti, giusto? Esatto. Perché ci hai chiamato per ricordarci questa storia? Spiegami. L'assoluto bigottismo dei cosiddetti cristiani che vanno in chiesa, che quando succede qualcosa volta tutti la faccia dall'altra parte e vanno tutti e nessuno va a indagare. E il grande lassismo delle gerarchie ecclesiastiche, ora non c'è più, ma all'epoca mio zio, addirittura un parente vicino, che non ti dice niente e ti lascia andare. Cioè, in che senso? Perché lo sapevano, scusa? Ma quando tu dici a tuo zio che è un vicario episcopale e dici sto facendo società con questo, e tu sai perfettamente che razza di individuo è, perché lo sapeva perfettamente. Appunto, e non sapeva che niente, cosa? Che cosa sapeva tuo zio? Che era una persona chiacchierata, che era una persona che aveva già avuto problemi in altri seminari, che ha avuto problemi in altre diocesi, eccetera, perché poi è venuto fuori tutto. E tu non dici niente neanche a tuo nipote. Lasciamo perdere le gerarchie che sono state interpellate da me e naturalmente hanno voltato la faccia dall'altra parte, finché poi c'è stato un avvicendamento, è arrivata una persona sana. E poi dopo ha cercato il di fare socio del Riccardo, il socio del prete cocainomane, eppure un po' porcello, diciamo. No, faceva le orge, però non quello, manca, diciamo, nulla, non manca. Ma dove le faceva ste orge poi sto sacerdote? Non mi ricordo più. Ma è stato arrestato in un appartamento a Milano, poi grazie a Dio non l'ho mai seguito, francamente non lo so. Vabbè. Cioè, nonostante però agganciamciamo anche a quello che ha detto il signore di 2 o 3 interventi fa, che nell'ambiente omosessuale ci sono i pedofili. Noi non abbiamo avuto mai neanche il sospetto, neanche mai la voce in questo senso. E la statistica che dice questo signore effettivamente rivela. Vabbè, Riccardo, adesso non riapriamo il discorso sui pedofili. Vabbè, ciao Francesco, no. Bergamo, vai Francesco. Pronto? Dimmi Francesco, dimmi. Ciao Cruciani, siete stati un po' mosci con la Cannizzaro, eh? Che senso? Mosci. Ma che poi dobbiamo sparare con un po' più grinta, Grinta. Sì, voi ci dovete essere così. Ma dovete mi pare più di massacrarla in modo ironico e di mandarla a fare il culo che più, devi di più. Noi vogliamo di più da voi. Di più, vai. Io sono quello che aveva proposto la zanzara anche il sabato, perché mi rompo i coglioni il sabato quando torno a casa. Vabbè, Francesco, che vuoi allora? Io ho bisogno di voi. Voglio la moglie proporre, che dice, la moglie. Visto che voi conoscete Rocco Siffredi e Trentalangi, un bel film porno con la Raggi. Film porno con la Raggi? Che c'è? La Raggi c'ha già tanti problemi. La Raggi carrapa. Ho capito, amico, se te la rapa la Raggi, sono affari tuoi. Che c'entra adesso il film porno con la Raggi? Sì, voi conoscete Rocco. Ma non conosciamo. Ma che cosa? Ma non mi sembra, tra l'altro. Ma non mi sembra che abbia il physique du rôle per fare un film porno. Ci sono altre, come dire, altre politiche che sono in realtà, potrebbero nell'immaginario popolare essere delle attrici porno. Ma certamente non la Raggi. Ricordati, faccia morta, figa forte. Faccia morta, faccia? Com'è? Faccia smorta, figa forta. Mancava questo aforismo. A domani, figa. Ragazzi. Ciao. Là ci vuole la nerchie. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.